La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in questa puntata particolare vi ringrazio come sempre per l'ascolto in diretta in podcast, e vi ricordo l'indirizzo della trasmissione, la versione di Oscar, @radio24.it. Sapete che rispondo a tutti, quindi mandate pure richieste, osservazioni, critiche, domande. E detto questo, però, oggi è una puntata un po' particolare, che prosegue quel filo rosso che teniamo aperto con alcuni scienziati italiani. Abbiamo avuto recentemente Boncinelli, abbiamo avuto Remuzzi, e anzi siamo proprio in ideale continuità con il discorso che abbiamo fatto con Giuseppe Remuzzi, approfittando del suo libro Siamo Geni. E quindi nella puntata di oggi avremo un'altra grande scienziata e ricercatrice italiana di consolidata autorevolezza, riconosciuta sulle maggiori riviste internazionali per pubblicazioni, e che è anche clinica, cioè si occupa di tradurre poi la ricerca nella sua esperienza diretta, perché è una cardiologa molecolare che quindi studia la radice genetica di alcune interazioni che portano a problemi cardiaci che hanno avuto effetti e hanno effetti mortali che non si associavano a questa dinamica esplicativa, e che quindi si possono prevenire una volta che ci sia nota la catena causale genetica e l'interazione molecolare bioelettrica con cui si manifestano nel cuore. Quindi stiamo parlando di cose di questa complessità, ma gli interrogativi che con lei ci poniamo hanno a che fare con alcune questioni che siamo già posti con il professor Remuzzi, cioè quanto siamo indietro nel capire quanto è rilevante e pesante l'effetto del nostro corredo genico nel determinare che cosa ci avviene, che cosa ci avviene come patologie, ma non solo come patologie, l'abbiamo già visto col professor Remuzzi. A, B. Una volta chiarito questo, come conviene comportarsi? Non dovremmo andare verso un mondo nel quale ciascuno dovrebbe fare la scansione completa del proprio corredo genetico per capire a che cosa è esposto e cosa a cosa sono esposti i propri figli? Non comporterebbe questo, dal punto di vista della prevenzione, non solo un fondamentale passo in avanti nella tutela della salute di ciascuno, della salute pubblica, ma anche un possibile risparmio successivo rispetto ai costi della sanità? Ce ne siamo occupati qualche tempo fa con il presidente dell'AIOP e abbiamo visto che noi abbiamo un grande problema di curva demografica, patologie degenerative, rispetto al fatto che stiamo regredendo nella spesa sanitaria. Attenzione! E poi, terza cosa, come si fa ad attirare più risorse per la ricerca avanzata su questo, visto che in Italia e soprattutto in Lombardia, perché anche la nostra ospite opera in Lombardia alla Fondazione Maugeri e insegna a Pavia, e abbiamo eccellenze, perché nelle graduatorie internazionali delle Life Sciences la Lombardia riesce ad attirare più risorse delle aree più avanzate del resto d'Europa, mentre nella media non avviene. Ecco, come possiamo pensare in questo di attirare più risorse? Ecco, 3-4 grandi problemi che sono molto importanti. Noi tentiamo di farlo, naturalmente non io, ma mi affido alla nostra ospite, di farlo nel linguaggio più comprensibile possibile. Ma detto tutto questo, vi ho voluto spiegare in anticipo di che cosa parliamo oggi pomeriggio, e io sono certo che abbiamo una delle ospiti migliori che si potessero immaginare da questo punto di vista, perché la professoressa, la nostra ospite torinese, che si è laureata, specializzata, dottorata sempre con laude, che sta alla Maugeri dalla fine degli anni 90, dove dirige il servizio di cardiologia molecolare, è diventata anche primario negli anni, è direttore scientifico eccetera eccetera, insegna cardiologia all'università di Pavia ed è collegata per questo particolare filone di ricerca che vi ho spiegato, quindi stiamo parlando di cardiologia molecolare, analisi di quanto la componente bioelettrica sia importante, come ovvio, in cardiologia nel funzionamento del cuore, ma alla luce anche di ricerche su quali sono le determinanti genetiche di alcune patologie. Si chiama, visto che vi ho detto tutto per due volte, Silvia Priori, e io la ringrazio di aver accettato il nostro invito. Grazie, buongiorno. Allora, qualunque scemenza abbia detto la corregga senza pietà, ovviamente. Però partiamo da questo, prima di parlare di lei. Secondo lei non sarebbe importante, partiamo dalla stessa questione che ho posto a Remuzzi, proprio per quello che fa lei, per quello che ha fatto lei, e ce lo spiegherà ai nostri ascoltatori, visto che è possibile oramai, è stata completata anni fa la possibilità tecnica di fare la lettura completa del genoma di ciascuno, andare a uno screening di massa che consenta a ciascuno di capire da dove viene e dove sta andando col suo corredo genico? È una domanda importantissima ed è importante soprattutto discuterlo e cercare di rendere consapevoli gli ascoltatori, quindi i cittadini, di che cosa c'è di applicabile in questi avanzamenti tecnologici. Quindi è verissimo, come lei ha detto, che oggi siamo in grado di sequenziare, cioè di leggere l'intero genoma, cioè tutte le informazioni che sono nel DNA delle persone, e vedere le differenze tra una persona e l'altra. Il problema e il limite a rendere questo tipo di analisi applicabile davvero a tutte le persone, quindi leggere per capire e prevenire, che rimane l'obiettivo finale dell'analisi genetica, è ancora l'incompletezza della nostra capacità di interpretare quello che vediamo. Quindi il punto è che molto spesso, quando invece di studiare quei pochi geni di cui sappiamo veramente molto e quindi riusciamo a interpretare i cambiamenti che troviamo, che cosa vogliono dire, quindi predispongono alla malattia oppure causano già la malattia in una fase magari iniziale, quindi davvero ci aiutano. In altri geni, che sono la maggior parte, noi non abbiamo ancora la capacità di dare un'interpretazione che sia poi applicabile alla clinica e quindi ci permetta di prevenire le malattie. Quindi la tecnologia di darci la capacità di leggere il DNA è più veloce della nostra capacità di interpretarlo, e quindi è qui il limite e il motivo per cui l'analisi dell'intero genoma non è ancora entrato come uno strumento clinico. Con quanto passerà ancora in termini di anni, secondo lei, probabilmente prima di adottare la sequenza di massa come uno strumento preventivo concreto e non solo di studio? Certo, per l'identificazione delle malattie su base genetica, quindi quelle dove il difetto genetico gioca il 70-80% dell'avere poi la malattia, probabilmente saranno nell'ordine di 4-5 anni. Ah, tempi rapidissimi. Accelerare. La vera difficoltà grossa è quella di identificare i cambiamenti genetici, quindi scritti nel DNA, che partecipano a determinare le malattie acquisite, quindi l'Alzheimer, il Parkinson, queste malattie che sono epidemiologicamente, cioè in termini di numero di pazienti affetti, quelle più importanti, perché abbiamo decisamente più pazienti con queste malattie che pazienti con le malattie causate da un singolo gene, le classiche malattie ereditarie, che sono però più rare, sono sempre milioni di persone, quindi lo studio è importante, ma chiaramente sono più facili da interpretare. La sfida di capire chi ha una predisposizione ad acquisire queste malattie è quello che forse avrà bisogno davvero di più anni. Quando abbiamo avuto con noi il professor Remuzzi, abbiamo parlato di uno dei 44 capitoletti in cui si articola il suo libro, che io continuo a consigliare a tutti perché non c'è bisogno di essere addottorati e scienziati, sono 44 esempi concreti di l'importanza dell'epigenetica. Ma detto questo, c'era un capitoletto che aveva attirato la mia attenzione tra le tante, relativo esattamente a una ricerca che si incardina nella sua specialità, professoressa Priori, perché tutto nasceva da un caso, da una ricerca che studiava ciò che era avvenuto in 4 anni all'unità coronarica della John Hopkins, dove 19 malati si erano presentati con problemi molto forti di crisi cardiache, erano 18 donne e un uomo, che avevano avevano perso da poche ore o al massimo pochi giorni, due giorni, chi il compagno, chi la compagna della vita, 18 donne, quindi erano quasi sempre uomini, e avevano il classico fenomeno che dice: ah, sta morendo di crepacuore. E nel capitolo si spiegava come qualmente la ricerca, postosi il problema, che cosa determina questa anomala incidenza statistica donne rispetto a uomini in queste condizioni, questi dati di fatto, è un caso, non è un caso. E allora, dall'accertamento di che cosa era avvenuto poi, cioè delle lesioni cardiache riscontrate, del tipo di maggior esposizione a lesioni cardiache in presenza di picchi ormonali di un certo tipo, la domanda era diventata: ma perché le donne sono più sensibili degli uomini agli effetti di quelle che si chiamano catecolamine? E proprio di questo parla il capitoletto. Questo per spiegare a chi ci ascolta che di queste cose qua si occupa la professoressa Priori. Il capitoletto del professor Muzzi diceva: questa ricerca è in corso, non lo sappiamo ancora quanto conti la genetica e quanto no in questa maggior predisposizione femminile. Per il momento accumuliamo dati. Anche le patologie per cui lei unisce genetica, bioelettrica, aspetti molecolari eccetera, vanno avanti con ricerche come quella della genopsin, che qui ho riassunto per l'ennesima volta, oppure lei dice: beh, ci sono aspetti però che non bisogna esagerare e non credere che sia la genetica a determinarli. No, sicuramente il nostro settore, cioè quello in cui io opero, è quello delle malattie ereditarie, quindi malattie che danno aritmie, quindi arresto cardiaco, proprio sulla base di alcuni geni che sono alterati. Quindi veramente è l'ambito in cui la genetica ha il peso maggiore, mentre la casistica che riporta Remuzzi sono persone che non hanno una malattia che esiste nella famiglia, corre nella famiglia, e tutti quelli che hanno la mutazione hanno un rischio elevato di avere quel difetto, ma è una serie di geni che predispone ad una risposta anomala, quindi non necessariamente un qualcosa che è trasmissibile in maniera così semplice, appunto perché non è soltanto l'effetto di avere un gene con una sequenza diversa, ma lei ha detto bene, epigenetica, quindi sono tutti quei fattori che poi modulano quanto le proteine vengono prodotte, come vengono prodotte, quindi è la lettura giorno per giorno dei nostri geni. Quindi l'ambito in cui lavoriamo noi è sicuramente quello in cui la genetica ha un impatto più diretto, ed effettivamente anche al nostro interno non possiamo mai dire il gene conta per il 100% della probabilità di avere la malattia, perché abbiamo comunque persone che hanno l'alterazione nel gene ma non manifestano la malattia o la manifestano in una forma leggera. Quindi ormai tutti coloro i quali lavorano sugli studi di genetica hanno imparato che comunque sempre avere un'alterazione genetica non vuole dire avere sicuramente la malattia nella sua forma più eclatante, ma che c'è sempre una modulazione e una variazione. E da qui si arriva fino a ai casi in cui la variazione è la parte preponderante e il gene magari contribuisce, ma non è la causa principale. Quindi è tutto un continuum di diverso peso di quello che abbiamo ereditato e che quindi è scritto rispetto a il nostro stile di vita, l'alimentazione, l'ambiente in cui viviamo, che modula poi la lettura di quello che abbiamo ereditato. Anche se questo ripartiamo di qua, lo diciamo per i nostri ascoltatori tra un minuto dopo l'interruzione sul traffico, anche se questo consente di risolvere alcune cose senza risposta, perché poi per esempio i casi di cui si occupa la professoressa Priori sono quelli di morti improvvise di bambini che prima erano inesplicabili per ragioni cardiache, e invece grazie alle sue ricerche e a quelli di chi lavora con lei e traguardato con lei nel mondo, noi abbiamo una risposta. Quindi questo consente, forse, speriamolo, di limitare poi la riproduzione di morti tragiche di questo tipo. Tra un minuto. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La la versione di Oscar. Ed eccoci qui tornati, è rimasta con noi la professoressa Silvia Priori, cardiologa molecolare, direttore scientifico della Fondazione Maugeri. Ci stava spiegando, certo, molto ancora resta da capire di come il cladogenico possa determinare, avere un rapporto di causazione, correlazione con patologie cardiache anche molto gravi che possano portare a morti prima inesplicate, ma però passi avanti ne abbiamo fatte, perché per esempio, professoressa, nel caso di queste morti tragiche di bambine, di due sorelle bresciane che avevano 12 anni, eccetera, eccetera, lei ha potuto dire alla famiglia, intanto abbiamo capito che, e guardate i loro fratelli e sorelle, perché forse no? Assolutamente, assolutamente sì. Lo scopo del lavoro che stiamo facendo, che abbiamo condotto in questi 25 anni dedicati all'arresto cardiaco nei giovani e nei bambini, tramite l'analisi genetica integrata con la lettura dell'elettrocardiogramma, dell'ecografia, quindi della valutazione clinica del cuore, a riuscire a identificare i portatori. Senta, io mi sposterei adesso in questa seconda parte della nostra conversazione al motivo per cui chi ottiene come lei dei fondi IRC, cioè stiamo parlando del segmento elevato dei fondi europei, di quelli di maggiore eccellenza, ecco, nel nostro paese, se andiamo a fare delle comparazioni tra quanti ne portiamo a casa noi e vengono spesi, li possono anche portare a casa ricercatori che poi decidono di venire a spendere in centri di ricerca italiani, ecco, se sommiamo le due componenti e le paragoniamo con le aree ad più elevata concentrazione di ricerca scientifica, di citazioni di articoli scientifici in proporzione alla popolazione e così via, si vede che noi come Italia non ce la caviamo bene. In alcune specializzazioni ce la caviamo bene o benissimo, le life science sono esattamente una di queste in Lombardia. Però la domanda che le devo fare è dal suo punto di vista, visto che lei è riuscita in questo ed è entrata nella fascia anche di IRC, che cosa manca per potenziare, pure nelle filiere dove siamo fortissimi, come la life sciences in Lombardia, più risorse rispetto a chi è magari più indietro di noi nelle citazioni internazionali, in alcune discipline, però invece se ne aggiudica di più? Che cos'è che manca? Chiaramente quanti soldi vengono dedicati alla ricerca e allo sviluppo della ricerca è fondamentale. Ma esiste poi anche un concetto di come spendiamo questi soldi. Nella mia vita di ricercatore, il problema più grosso che ho avuto e che continuo ad avere lavorando in Italia è quello delle infrastrutture, di quelle grosse apparecchiature che costano talmente tanto che non si può pensare di acquisirle con un finanziamento per il mio progetto o il progetto di un'altra persona, ma sono infrastrutture che vanno condivise all'interno di un'università, all'interno di un grosso istituto di ricerca. Ora, nella mia ricerca, effettivamente, ogni volta in cui mi sono trovata ad un blocco, e cioè io devo usare questo tipo di apparecchiatura che nella mia università e nel mio ospedale non sono, io ho iniziato un'attività all'estero. Io ho passato 8 anni ad avere dei laboratori anche a New York, quindi lavoro il 75% del tempo in Italia e il 25% ho lavorato a New York. Adesso da 2 anni, perché ho necessità diverse, ho dei laboratori in una struttura in Spagna che mi serve per un tot di anni finché avrò finito un certo percorso scientifico, e poi o troverò tutto in Italia quel che mi serve o mi trasferirò da qualche altra parte. Ecco, questo vuol dire che manca una strategia e un'organizzazione concertata per creare queste infrastrutture. Questo non è un problema di semplice risoluzione, perché a noi manca, come tanti di noi continuano a dire, una agenzia unica centrale nazionale per la scelta appunto di queste decisioni grosse infrastrutturali, che sono la base su cui poi noi andiamo ad attrarre risorse dalla regione, dal ministero. Questo però significa fare una valutazione dei punti di eccellenza da rafforzare, su cui puntare. Le faccio una domanda: quanto è forte la resistenza, tra virgolette, di tipo egualitario, che viene anche dal mondo della ricerca universitaria non troppo avanzata, all'adozione di un criterio pubblico di questo tipo? Cioè, puntiamo sulle eccellenze. Quanto più andiamo a livello locale, a livello piccolo, tanto più il cercare di dare un pochino a tutti, che è un modo spesso importante di buttare via le risorse, perché non si riesce mai a produrre nulla di grosso, si forza la linea di sopravvivenza di tutti a scapito della creazione, appunto, magari dell'acquisto di una grossa apparecchiatura che non serve a tutti. tutti, ma può servire a tanti e soprattutto può aiutare a fare dei percorsi innovativi veramente, che poi portano brevetti e quindi risorse e quindi arricchiscono il sistema, da cui poi si garantisce anche il sostentamento dei ricercatori validi ma più piccoli o giovani che stanno partendo. Per questo un coordinamento a livello nazionale è mancante e sarebbe la cosa fondamentale. Speriamo, io sono un po' dubbioso. Le faccio questa ultima domanda per capire, e qui anche qui in termini generali chi ascolta. Noi abbiamo avuto nella storia del premio Nobel per la medicina e fisiologia 6 attribuzioni come italiani, ma in realtà se andiamo a vedere poi di questi 6, 4 avevano lavorato proprio negli Stati Uniti. Cioè, era così per Lurie, era così per Dulbecco, era così per Levi Montalcini, era così per Capecchi. A chi è giovane in ascolto, pensa a specializzazioni eccetera eccetera, che cosa dice con sincerità? Resta qua o vai fuori? Beh, io dico ai ragazzi di restare in Italia, di mantenere la propria attività in Italia, ma sicuramente fare dei percorsi formativi all'estero, sicuramente lavorare in una rete internazionale, perché il ricercatore che lavora in Italia, se è sempre stato in Italia, se è formato solo in Italia, non può esistere, perché non si può nel nostro settore lavorare chiusi in un paese, quindi il giovane deve fare dei percorsi all'estero. Poi chiaramente se riesce ad avere delle sistemazioni, dei luoghi dove può avere lo spazio e competere per delle risorse per mantenersi, sicuramente è valida l'idea di restare nel proprio paese. Io da giovane ci tenevo a rimanere in questo paese per motivi personali, ma anche proprio con una motivazione di tipo istituzionale, ma ho passato 5 anni di formazione in vari periodi della mia vita interamente fuori. Ma questo lei, posso fare una domanda che ha a che vedere con il baronato, per capirci, sì. Non quello araldico ma quello universitario, nel suo percorso, prima dei successi, nel suo percorso formativo, quanto ha pesato il fatto di aver avuto o di non aver avuto un maestro fondamentale che le aprisse delle porte all'interno della formazione accademica e poi della ricerca italiana? Penso che posso risponderle che ho pagato molti prezzi, ho avuto molti problemi a livello di appunto queste gestioni politiche, questo aprire o chiudere le porte che appunto si sono chiuse. Fa parte di un mondo relazionale, non del merito italiano. Certo, e fa parte del non avere aiuto magari quando cerchi di portare avanti una linea di ricerca in maniera indipendente. Ecco, questo sicuramente è stato un problema che ho effettivamente affrontato lavorando anche all'estero. Come vedete, la professoressa, non solo con la professoressa Silvia Priori, abbiamo fatto un altro passo avanti rispetto a questo discorso che continueremo a fare, di quello che abbiamo dentro di noi che dobbiamo capire per aiutarci a evitare, con ricerche, soldi investiti e unendo ricerca e clinica, a morire di meno e a far morire di meno i nostri figli. Il punto è anche l'Italia, il suo diciamo così environment, il suo ambiente giuridico, politico, culturale. Come vedete le eccellenze, come la professoressa Priori, sono sincere nel dire no, io ho dovuto combattere, non è che qualcuno o molti mi hanno dato una mano, perché molti mi dicevano questo tuo filone non è supportato da chi conta davvero nella baronia. Ecco, ci sono questi problemi da risolvere, perché in queste disciplina, guardate, noi non siamo indietro dal punto di vista della ricerca, siamo meno bravi degli altri ad avere infrastrutture e ricerche e fondi di ricerca internazionali. Questo è il punto da cui ripartire. Grazie al nostro ospite e grazie per quello che ha fatto e fa per i bambini italiani. Continuate su Radio 24.